Ragazzi, bentornati alla cena dei regini. Puntata particolare, mi è venuta un'idea l'altra sera, ero ad una festa dove ho messo musica e parlavamo della modernità e quindi, ragazzi, voglio iniziare questa puntata della cena dei regini, Panda lo sa benissimo anche Andrea, con una piccola sfida. Una sfida a te che ci stai ascoltando, che perdi tutto il tuo tempo sempre indaffarato a guardare 10 pagine internet contemporaneamente, WhatsApp, Facebook contemporaneamente. Passa il resto di questo blocco della cena dei regini a chiudere tutto questo e semplicemente annoiarti. Ascolta solo questo video fino alla fine di questo blocco, sfida te stesso a non guardare l'altra pagina che hai sotto, che magari è anche un'arda, non controllare Facebook mail 2000 cose, chiudi tutto, annoiati, fai questa grande cosa che nel XXI secolo ormai ci siamo dimenticati di cosa sia. Perché? Cioè, si è sempre presi da qualcos'altro, da qualcosa in mente, il pensiero di qualcuno a cui bisogna rispondere, di controllare l'ultima notizia di qualcosa di poco importante. Non controllare, non guardare. Si stava distraendo. Annoiati, concentrati ad annoiarti. Ragazzi, loro lo stanno già facendo, infatti non li faccio mangiare perché devono esattamente annoiarsi per i prossimi minuti, è giusto che sia così. Parliamo di quello che è successo a Laos nel frattempo, visto che abbiamo tutta l'attenzione che ci sta ascoltando. E quindi abbiamo fatto una bellissima serata di cinema assieme ai Goonies, un grande classico degli anni 80. Quanto è stato bello riguardare i Goonies. Meraviglioso. Quanta nostalgia nel rivedere Chang. Troppo nostalgia di quegli anni. Perché era diverso, perché c'era una prospettiva di vita diversa, perché i Goonies erano comunque ragazzini. Ma la cosa bella era rivedersi in quei ragazzi, perché era più o meno quello che facevamo noi, senza tesori, ovviamente. Non andavamo a caccia del doppio deca per mettere la benzina al motorino e le mitiche 10.000 lire come il grande tesoro. E comunque continuiamo adesso con questo ciclo, diciamo, di film. La prossima settimana Stand By Me, altro grande classico, la possibilità, come ho scritto anche sul faccialibro, di rivedere Jerry O'Connell grasso, cosa che poi ha risolto questo problema, quindi già solo questo merita la visione del film. E poi andremo avanti con le altre iniziative, i live che saranno ora nelle prossime settimane, quindi Mystery Night e Camelot, e poi il 29 il grande concerto degli Ice Cream dei La Brain. Quanto sarà bello avere qui gli Ice Cream e i La Brain, che dovevano essere qua anche stasera, però non ce l'hanno fatta, quindi saranno ospiti la prossima settimana per la prossima cena, perché giustamente ormai è un appuntamento talmente fisso che io stesso ogni tanto dico vabbè, vado la settimana prossima, ma no, non importa, vado questa settimana. E poi ragazzi, quanto è stato bello festeggiare qui, una bella festa in cosplay, abbiamo fatto queste iniziative un po' particolari. Io mi sono travestito da Lobo, il grande personaggio della DC che in pochi hanno riconosciuto perché loro sono giovani. Che grande classico che era Lobo, un personaggio... anche 2000 kg di muscoli. Dettagli. Un personaggio che comunque ha ucciso tutta la sua razza per restare l'unico della sua specie e che poi è diventato un cacciatore di taglie, quindi un personaggio particolare. I ragazzi comunque faticavano a riconoscerlo, i sciagurati faticavano ad accettare questa mia somiglianza incredibile. No, ma devi capire che è americano. È solo il fatto che è americano, la maggior parte delle persone era più per il giapponese e l'orientale. Ah, perché giustamente lui dice è un bimbo giapponese, quindi non poteva capirlo. Però ragazzi, lui sì. Quanto è stato bello. È stata una serata molto divertente. Hanno giocato allo Shanghai Gigante, li ho visti poi... Si vedeva la competitività delle ragazze, dei partecipanti che si mettevano, si mandavano malanova a vicenda per prendere il pezzo di più. È stata una serata, quella dello Shanghai Gigante, incredibilmente sentita. E tra l'altro ha vinto un gruppo che saranno ospiti dei prossimi eventi, perché hanno vinto la partecipazione ai prossimi eventi, dal particolare nome che non andremo ora, o ripeto. Diciamo che non si può, diciamo, però comunque erano diciamo le formose, chiamiamole così, vabbè, le formose in maniera molto particolare. E comunque agguerrite, belle, cariche, toste. Avevano cominciato piano, ma alla fine sono quelle che hanno provato. Hanno avuto anche un paio di inconvenienti, tipo una borsetta che è finita sopra, cioè questi inconvenienti che capitano quando si gioca. Sì. Tra ragazze può succedere, la borsetta che ti va a finire sullo Shanghai gigante, però comunque è stato bello lo stesso. Poi karaoke, musica, video. E le ragazze si contendevano il panda a un certo punto. Panda venduto a pezzo. Va via come niente. 300 euro al chilo. L'ultima volta. Mi fa di soldi. Tutto il sudore che aveva addosso aveva il peso triplicato. Faceva caldo. Dovete capire. Compatitemi. Ma povero Panda, è stato veramente anche lui il... Che io ho avuto la geniale idea di, non so, è luglio, fa caldo, mettiamoci il cappotto di pelle e facciamo freccato di Punisher. Sì, e poi mi dai il cappotto per andarlo a posare, lo prendo e sento qualcosa che mi goccia lungo il braccio. Dobbiamo ricordare la idea che siamo questa magari potete sbagliartela. Va bene ragazzi, va bene, perché comunque è stata bella lo stesso questa serata. Assolutamente. Assieme ce ne aspettano tante altre da guardare sul sito ilbac.it. Adesso commenta cena@ilbac.it cosa ti ha trasmesso questi 5 minuti di noia, perché comunque hai vissuto la noia, una cosa che ormai non esiste più. Adesso puoi riaprire il tuo Facebook e tu vedi che poi riapre tutto il mondo, tipo apre le pagine. Ci sarà un picco, riaprire quelle 20 pagine di browser che vai a guardare adesso e ritornare dopo una piccola pausa musicale alla cena dei regini. Torniamo subito ragazzi. All'House of Bach si tiene una cena molto speciale dove si discute delle prossime iniziative e si parla con i nuovi amici che ci vengono a trovare. Da questa tavola passa tutta la buona energia della città. Benvenuti anche a voi alla cena del regino. Ragazzi, bentornati alla cena dei regini, anche questa settimana all'angolo delle notizie dalla strada, quelle più strane, più curiose, la tecnologia, la cultura, l'arte, la società e quant'altro di peggio tu possa trovare nella rete rischia di essere il tormentone dell'estate 2014. Qual è il tormentone dell'estate 2014? Picchi Andrea. Picchi Andrea è un famoso hit del momento, il tormentone. Esatto, miagolo di gatto che a Sofì piace moltissimo. Il tormentone può essere Shakira, può essere Justin Bieber. Esatto, no, e invece no. Si chiama chiappa luzzinzale. Come? Chiappa luzzinzale, il tormentone dell'estate 2014, incisa dal cosiddetto collettivo salentino. In quanto l'identità degli autori attualmente è sconosciuta, per meglio dire non è identificata, è molto peggio, perché comunque è carino il progetto. Una canzoncina creata da un ensemble, diciamo, di noti DJ, autori e musicisti del Salento, che comunque hanno messo insieme, diciamo, le loro idee e hanno piazzato su YouTube questa canzoncina che sta effettivamente spopolando, ha avuto un discreto successo anche su iTunes. Quindi no Shakira, no Justin Bieber, no UI Direction, no Justin Bieber, quindi niente Gianni Trudi. E anche Albano se ne farà una ragione, perché chiappa luzzinzale è la hit. E questo nome come fanno a ispirarti o cosa di bello? È bella, è una canzoncina. Penso di essere in grado di dirlo. Anche io. Perché? Chiappa luzzinzale. Non lo scegli in qua. Potresti evocare qualche divinità antica, non lo so. Tipo Peter Giulio. Assolutamente sì, ma ragazzi, è la tecnologia, è l'arte, è la moda, come si fa ormai di questi tempi a non comunque illustrare con almeno un video, una foto, qualsiasi impresa che si fa nella vita quotidiana, quelle più strane, più particolari, che so, ti hai un incidente in auto, lo devi comunque registrare ovviamente con la tua telecamera, hai non so, un incontro con uno sconosciuto, devi avere la telecamera sempre addosso. E proprio per questo una nota marca di telecamere portatili, che si può dire la GoPro perché ormai è famosissima, non solo magari. Però l'hanno utilizzato anche là, se ti ricordi bene, anche nel Mythic World Worlds. Hanno fatto, loro hanno creato questa, sono specializzati in queste telecamerine portatili, e hanno creato questa mania per questi video istantanei che permettono di condividere, di registrare e condividere qualsiasi tipo di momento. Ad esempio, come fare a meno del braccio estensibile per scattare le selfie estreme. Cioè tu ti porti questo braccetto che lo allunghi mentre stai andando... L'ispettore gadget! Aspettate ragazzi, perché gli accessori, uno sempre il braccino, perché quando vai sul surf, qua fa vedere, ti devi fare la foto col selfie particolare, oppure quando sei in giro devi fare questo selfie panoramico per fare vedere a tutti quello che stai combinando, oppure c'è anche la linea per musicisti, perché tu devi attaccare la telecamerina, ti devi attaccare la telecamerina alla chitarra oppure ai vari strumenti o anche addosso al microfono per registrare il concerto in maniera, con una prospettiva particolare. E addirittura c'è anche quella cosiddetta a collo d'oca, che è un'asticella che tu puoi regolare. E ma, quindi... ma ce l'hai addosso? Sì, assolutamente. Deve starti addosso, al massimo è consentito, secondo la filosofia di questa azienda, che tu la metta sempre sulla chitarra che stai suonando oppure sul veicolo. Che sta abbastanza. Ed è ancora la linea Kids, la linea Junior, dove tu puoi attrezzare il tuo figlioletto con una pettorina che permetta di registrare, come si è visto anche nel video. Pettorina che permette di registrare tutte le sue imprese giovani ed eroiche, e addirittura da pochissimo è uscita anche la versione per animali. Tu puoi addestrare questa è sempre un'altra pettorina per il cagnetto, per il gattino, gli attacchi la telecamera e lui fa i suoi filmati in giro per il mondo. Quanto è bello! Perché? Vabbè, andiamo un bello pietoso. Le cose più inutili, lui ha detto non più inutile. Lo devo dire a Sofì, secondo me lei però... adesso che ha questo periodo di escandescenza. E tu vedi che tutti i giri che ti fa mentre la posso seguire alle sue imprese. Ragazzi, tanti ce lo siamo chiesti a proposito di animali, perché hanno le orecchie flosce? Perché hanno le orecchie flosce? Mai chiesto in vita mia. Come non te lo sarei sempre chiesto? Perché sì, l'animale? Perché non ti hanno risposto? loro con le orecchie comunicano anche vari stati d'animo, quindi per esempio quando sono appassate sono nervosissime, quando sono tese stanno ascoltando, quando sono tese, io parlo dei cani, quando sono tese stanno ascoltando qualcosa, si stanno concentrando su qualcosa, sono calmi comunque. Guardate un gatto quando è incazzato, le orecchie ce l'ha verso dietro che sembra aerodinamico. E invece no, perché anche questa pare che sia colpa dell'uomo. Secondo un studio pubblicato su Genetics, una rivista appunto di genetica e simili, è grazie all'uomo che i cani hanno sviluppato queste orecchie particolari, perché all'occhio dell'uomo il cane sembra più docile, più diciamo, come dire, sicuro, più tranquillo. E quindi sono la razza che si è evoluta di più, è quella con le orecchie più lunghe, hanno fatto questa specie di mini selezione naturale grazie alle abitudini dell'uomo. Pensa, quanti danni abbiamo fatto? Non finiremo mai di farne. In più anche questa, il cane con le orecchie tipo Bon Jovi, che ha le orecchie adesso te lo becchi che hai fatto il danno. Poi il pastore bergamasco, no, quello là, quello che mi ha detto. Comunque c'erano delle razze proprio, dico, che hanno le orecchie. Sì, incredibile. E pensa, l'uomo ha inciso anche su queste cose, è incredibile quanti danni riesce a fare. Però ci sono anche delle piccole cose che possono funzionare nella vita di un uomo. Ad esempio, se tu metti un calzino su una macchina fotografica, non fotografo niente. E invece no, esce un meraviglioso effetto fotografico, che è uno dei 7 effetti fotografici che questa rivista di fotografia suggerisce agli utenti. E pensa, con degli oggetti semplicissimi spiega che si possono realizzare delle foto molto particolari. Per esempio, questa, la calza sulla macchina fotografica dà uno strano effetto di sfocatura molto elegante. Oppure fotografando una biglia e poi rimettendo la foto al contrario si ha un particolare effetto lente, che si potrebbe ricreare con Photoshop con degli effetti particolari, invece è possibile farlo in natura con dei piccoli accorgimenti. Addirittura, se tu vuoi, ad esempio, lo suggerisce sempre questa rivista, vuoi ad esempio avere l'effetto fiamma sotto la foto, come fai? Ci metto l'accendino. Non solo, con la... Davvero? La no. Suggerisce... La cera lac e l'accendino, cioè spara la fiammata, okay. E quindi suggerisce di usare questo come questo piccoli piromani credo. Allora, questo mi sembra azzardato, però gli altri sono abbastanza voglio fare l'effetto, voglio fare questo effetto fiammato in un bel bosco che bello. Però tutto il più particolare secondo me è quello della luce al neon, quella che si usa nei bagni solitamente, messa intorno alla faccia delle persone, che dà al primo piano questo aspetto più pulito, diciamo, perché comunque cioè devi fare la foto a una tizia che ha una luce al neon in faccia praticamente, ma in faccia proprio davanti oppure tipo davanti, devi usare tipo aureola, tipo schermo, diciamo, non c'è tanto di carcerato, di galeotto. A me è piaciuto sempre farmi le foto, provare con le luci, quelle viola, quelle ultravioletti. Sì. Poi volevo vedere che effetto ne esce in fotografia con la luce ultravioletta. È da sperimentare, perché va tanto. Abbiamo appurato che non serve neanche questo. È meno pericoloso, ma della sì, sicuramente, ma ragazzi, bisogna tentare nella vita, non e questo. Lo sa benissimo Fatih Özkan, che è un cameriere. Sembra un bestemmione. Ragazzi, ricorda, è un nome di persona. Il giovanissimo Fatih, un cameriere di un ristorante turco di York, vicino Londra, ha avuto una brillante idea. Ha stressato il suo capo, il titolare del ristorante, per fare una scommessa, una puntata sul cosiddetto gioco Euro Millions, e quindi lui aveva questa intuizione data da un suo sogno, ha detto al capo: gioca, mi raccomando, queste cose eccetera. Il capo incredibilmente ha vinto e adesso sono in causa perché non vorrebbe dividere la somma con lui, e quindi pensa dovrebbe dividere 1 milione di sterline assieme al suo capo, e adesso sono in lotta per questa cosa. Uno ha avuto l'idea, l'altro ha messo i soldi, adesso lo divide. Ci sarà questa battaglia legale senza esclusione di colpi, perché 1 milione di sterline, voglio dire, è molto particolare. 8 milioni di sterline, no? 1 milione e 200 mila. No, qualcosina di più. 1 milione e 200 mila. Vero, ma non sta male. Però comunque pezzo. Ragazzi, bollino rosso, okay. Arancione, perché adesso possiamo dirlo a gran voce anche sui social network, io ce l'ho pelosa, lo dico, le donne di tutto il mondo lo stanno dicendo in questo momento sui social network, è una grande mania, il boom dell'estate 2014, io ce l'ho pelosa. Un boom retro. Non si sa, però sta spopolando questo trend delle ragazze che non si depilano e che condividono la foto delle loro gambe, delle loro ascelle con questo mantra, diciamo, sì. Io ce l'ho pelosa, e sta spopolando, veramente una nuova moda assolutamente discutibile, però comunque particolare. Pensavo fosse nuovo sulla lista delle sessualità di Facebook, tipo maschio, femmina, peloso. può essere, perché sta facendo veramente scalpore. Addirittura è nato un vero e proprio club riconosciuto legalmente, Air Legs Club, il club delle gambe pelose. Perché? Perché loro vogliono dimostrare la loro voglia di le donne tramite questa iniziativa, dimostrare il dissenso verso questa mania di rasatura, ceretta e via dicendo. Ragazza, a voi la parola, cosa ne pensate? Non avrà più uomini. Forse non l'avevano già da prima. Ma non è questo di dimostrare libertà, non è non depilarti che Cioè, vedo, conosco più uomini, penso, che si depilano che rispetto alle donne. Questo fa forse ora forse. Ma infatti l'urlo può essere comunque bisex, cioè io ce l'ho peloso. No, ma potrebbe essere principalmente un segno di pulizia, il genere, la prima cosa. Poi, cioè, non lo so. E poi esteticamente c'è questa, cioè si riscontra questa differenza tra il momento in cui si è depilati e non si è depilati. È notevole. Sì. Fantastico. Una volta che con i baffetti e il sopracciglio. È notevole, ma anche intollerabile. No. Cioè ormai manca solo quello, il crema e i baffetti e il monociglio. E tu le dicono, a un certo punto non hanno anche i mustache. Beh, mia nonna non scherza. Ragazzi, e se si tornasse alle donne con i baffetti? No. Sì, sai un po' che sconto di barba io e lui? Schermaglia amorosa, era un gioco a due. Se cresci i baffetti veramente, sai che sconto il barbe? Sai che sbaglio? Arriverei di notte, bro. Ma ragazzi, c'è una ricorrenza incredibile che è scattata in questi giorni. Il 14 luglio era il 25esimo anniversario di un grande film, Harry ti presento Sally, un grande classico, grandissimo film, Billy Crystal, McGrian, e soprattutto una scena. La famosa scena del finto orgasmo di questa ragazza in un ristorante che improvvisamente finge un orgasmo davanti a tutti. E lei era interpretata da Meg Ryan che faceva questa scena, ma colpo di scena, perché tu la vedi là nel film seducente, lei, bella ragazza, eccetera, che fa questo orgasmo finto. Colpo di scena, si rivela adesso il regista. Che in realtà durante le riprese Meg era molto stizzita da questa scena, era molto intimidita, eccetera, e fu Rob Reiner, il regista del film, cioè questo attempato e barbuto signore, a insegnare a Meg Ryan a fare il mitico orgasmo finto. Cioè dice che lui si è seduto là davanti a tutti e poi Meg ha visto e ha fatto lo stesso. Inquietante anche questa notizia. Probabilmente avrà una visita sessuale molto molto strana. Comunque nel ristorante dove è stato girato questo film è famoso, c'è, quel ristorante, c'è il tavolo con il cosa, con le pieno, certo, qua è stato interpretato l'orgasmo da Rob Reiner. Adesso dovranno cambiare la scritta. Potrei chiedere loro di improvvisare un orgasmo, cioè chiusura di questa cosa, dai. Aspetta, ho sentito un versettino. Ragazzi, fa visualizzazioni su YouTube, quindi no, una cosa tipo e io chiudo. Vai, 3, 2, 1. Ma tra poco con la cena dei regini succede veramente di tutto a questa tavola. Watercolor commonplace in Tong Town, so don't be doing it. It might look the same as yesterday. Do you remember me, Sam? Along the seafront face of midnight, suggest you doing it. You meet people from the hollow waste of enzyme, so keep pursuing it. It might look the same as yesterday. Do you remember me, Sam? Figure on the avenue, feeling he gets when he sleeps with you. The falling glow, I know I can't let it go. The figure on the avenue, the feeling he gets when he sleeps with you. No, that won't. How's it feel to finally be replaced in old town? You wrote the history, you still carry that eclectic look on your face. For me that's comedy. It may look the same as yesterday. Do you remember me, Sam? It may look the same as yesterday. Do you remember me, Sam? The figure on the avenue, the feeling he gets when he sleeps with you, the falling glow, I know I can't let it go. The figure on the avenue, the feeling he gets when he sleeps with you. Ragazzi, cena dei reggini, bentornati con l'angolo della classifica. Questa classifica è molto molto attuale, molto molto importante, molto molto da seguire. Solo 7 punti, perché sono i 7 atteggiamenti davvero nerd che non ti aiutano nella vita sociale. Si sa, si... E tu hai... Me Andrea, ce l'ho? Ce l'ho. Ma tu non hai capito, ragazzi, prima di iniziare, io oggi stavo scrollando Facebook, a un certo punto vedo una... vedo un'immagine tipo videogiochi una volta, con una mappa bella dettagliata, videogiochi oggi, con la linea, ok. Guardo quella mappa, la guardo, e penso, ma questa è una mappa di Doom. Nel momento in cui ho detto questa è una mappa di Doom, mi sono visto la tutta lì davanti e ho detto, perché lo sto facendo? Cioè, dalla piantina della mappa ho riconosciuto il mio gioco. Hai vinto il premio nerd. Otto atteggiamenti nerd. Ecco il numero 8. Essere Andrea. Sono pietrificato dall'imbarazzo. Però ci vorrebbe paura anche. Sta seguendo questa puntata, la numero 8, se sei Andrea. Presto avrà una soluzione nella tua vita. La tua vita sociale. risparmi. Alla numero 7, fissare la realtà con stupore, non lo fare mai, perché il nerd capita che guardi ogni cosa, qualsiasi cosa al di fuori dello schermo con un certo stupore, e addirittura capita che si fermi a fare la battutella, o almeno pensi che figata la realtà che utilizzi una scheda grafica è davvero eccezionale. Ma la fanno tutti più oppa questa battuta, almeno quindi una quei nerd che hanno la bachechina con il patetico. Questo è durissimo, questo è durissimo, ragazzi. Ovviamente non si risparmiano neanche le belle ragazze, intese come meraviglia della realtà che lo sanno colpire. Alla numero 6, ragazzi, rovinare le occasioni agli amici. Quando tu hai l'opportunità di avere un buon amico accanto, nelle occasioni sociali è indiscutibile che sia una marcia in più, cioè l'amico che ti sia veramente accanto. Invece il nerd sa rovinare veramente tutto con una battutaccia e con un falso picco di onestà intellettuale. Pensa anche quando, ad esempio, registri la cena dei regini e ogni tanto parte. Ne esce qualcuno che commenta la tecnologia, il nerd non ti calcola neanche, e effettivamente ti provoca anche fastidio quando ce l'hai accanto, perché non ti risponde neanche, perché ormai, cioè, è chiuso nel suo mondo. Sì, ma io, ma è successo anche a me, tipo di parlare con una persona, magari non ci vedevamo da mesi, ah, come stai, tutto a posto? Dopo un'ora recettiva, ma quello non è il nerd. No, quello stava giocando. È dissociato. Sì, completamente. No, era nel suo momento di battere. Quello è l'essere umano del giorno d'oggi. No, quello stava giocando. Era uscito da casa che aveva lasciato un gioco. Dopo 3 ore ancora stava giocando con un altro perché non poteva fare più a meno. Terribile, terribile. Vabbè, ma voglio dire, noi facciamo adesso i punti essenziali, poi ognuno può rapportarsi con le sue esperienze di vita dirette, così alla fine abbiamo una visuale completa di cosa il nerd non dovrebbe fare nella vita per essere veramente fastidioso. Quindi alla numero 6 abbiamo detto rovinare le occasioni degli amici, alla numero 5 l'essere spocchiosi, l'atteggiamento di, da eterno superiore, millantare conoscenze mirabolanti. Sai che esperienza, punto e punto, se devi diventare una persona che conosco anch'io. Continua, Bacca. Solo una piccola mia parentesi personale. A che punto essere Andrea? No, soprattutto, ma comunque millantare queste conoscenze incredibili. E poi quando in questo qualunquismo, comunque nel nerd, quando si manifesta nella sua grande conoscenza. E poi solitamente la discussione che finisce con l'interlocutore che gli dice io ieri sera ero con una donna e tu da quant'è che non esci? Che è il finale per finire ogni conversazione con un vero nerd. Risulta anche questo nella tua conoscenza, anche questo? Sì, fino a qualche, cioè, magari non lo so, ma anche con questa persona ho smesso di uscirci, però sì. Quando sei uscito con una donna? Ma ragazzi, comprando i game mi sono comprata una tra le braccia. Meglio così. Alla numero 4, perdersi in inutili discussioni. Appunto, proprio ad eccitare veramente il nerd sono le discussioni su argomenti inutili, assolutamente inutili, che vanno dai vari codici informatici fino alla teoria secondo cui Gandalf a bordo delle aquile avrebbe potuto distruggere l'unico anello senza l'aiuto della compagnia. Avete capito cosa intendo? Ed è vero. Sì, cioè ci si perde in tutte queste quelli che ti danno delle spiegazioni allucinanti su sui fumetti, per esempio. Anche. Ma quelli che ore di così discussione nel descrivere una vignetta. Ho assistito a queste scenti e cose, me ne sono andato nel nauseato e lo stupefatto. Ma si prendevano anche il gusto, capito? È perché poi quando si ritrovano non solo uno ma più nerd insieme, così sì. Combo! È terribile. Ti posso ricordare che fino all'inizio della GER ci stavamo. Stiamo ripetendo in memoria tutte le puntate di Cavaliere alla 350esima. Caccia! Perché fare outing così in diretta? Lasciamo stare. Sono sinceri, ragazzi. Al numero 3 andiamo sulle attività più tra virgolette intime del nerd. lasciarsi andare a tenerezze inopportune. Il nerd è capace di una corte spietata sulla sua preda, perché quando mira una donna, però è solitamente rimasto a piccoli problemi di cuore come grande metafora tra il rapporto tra uomo e donna, quindi riempie solitamente la donna di questi peluche, di queste cose, senza mai interrogarsi come mai l'orsacchiotto che ti piace tanto regalarle no, è sprovvisto di un apparato riproduttivo. Ci sarà un motivo. Il nerd ama così, insomma, cioè tramite queste coccolosità. Dipende, secondo me, perché c'è questo e magari c'è quello spocchioso che sente superiore, e anche se a lui piace una persona, l'altra persona deve avvicinarsi a lui. Bello. Quindi c'è anche il nerd tenebroso, dici? No, il rock palle, tenebroso è tutta un'altra cosa. Tenebroso è la Batman Buck. Ma ragazzi. Il nerd non ragazzi, la numero 2 farà molto discutere questo punto. Essere un fan dei Pokémon. È il nerd che all'elementare andava alla psicologa perché un temino aveva scritto: Pikachu è l'unico bambino della scuola che mi capisce. Capitano queste cose, quindi essere un fan dei Pokémon. Questa cosa, scusate, mi sono perso questa cosa. Può essere pericolosa, perché può essere che, cioè, nell'esempio, diciamo, immagina il vero Pokémon fan che comunque fa questo temino all'elementare e poi, che ne sai, magari finisce in chiesa. Ma poi perché diventa Anna Maria Franzoni. Il Pokémon immaginario. Diciamo che è senza dubbio il primo posto nella classifica. Perché... No. Al primo c'è di peggio. Poi mi dicono le cose. Bruciare qualcosa. No, ragazzi, ma guarda, okay. Devi andare a raccontarvene veramente troppo. Facciamo andare avanti la classifica. Voglio dire, anche okay, i Pokémon sono un gioco bellino, ok. Ma tu, un ragazzo di 40 anni sta lì su Facebook. Ragazzi, 40 anni che sta lì a parlare solo di Pokémon, c'ho tutti gli amici. 40 anni? A 40 anni parla solo di Pokémon, vedi immagini dei Pokémon, tutte le pagine dei Pokémon, i videogiochi dei Pokémon, i video di lui che gioca con i Pokémon. E quella è Nintendo. Ma non è una donna, secondo me, perché chi lo vuole? È l'inventore. La Pokémon anche lei. In Giappone magari è una che fa il cosplay dei Pokémon. Adesso questo tipo ha visto il video e ti manderà a casa un Pokémon bomba, praticamente. Pikachu esclusivo. Guarda le donne, in Giappone hanno creato diverse soluzioni alternative. No, andiamo avanti. Soluzioni giapponesi di Panda. Allora, vista l'ultima puntata, tu scrivi le cose che hai da dire e poi alla numero uno, ragazzi, gravissima, il peggiore errore che un nerd possa fare nella sua vita sociale: credere che i personaggi dei videogiochi siano reali. È controproducente già spacciarsi oltre i 40 e via dicendo per un accanito videogiocatore, quindi già questa cosa un po' è, diciamo, particolare. Se poi parli dei personaggi dei videogiochi come se fossero persone in carne e ossa, rischierai di avere con Super Mario i dialoghi più interessanti delle tue serate. Mamma mia! E ragazzi, purtroppo, secondo me è al numero uno, perché veramente quello là che ti parla dei videogiochi come cose reali, eccetera, terribile. Tu ancora non hai mai incontrato una persona del genere. Ma non solo dei videogiochi, le peggiori in assoluto, dico le peggiori, sono sempre ragazze e hanno quella fissazione, tu dici, un personaggio qualunque dei manga e loro hanno tutte le cose di quel personaggio, hanno Yoshimoto ti amo, tutte le immagini di Yoshimoto in mezzo ai cuoricini, i fan del personaggio singolo. Per quanto questa, e chiudiamo perché questa qua veramente rasenta la follia, gli anni 90 a Pezzatena arriva un elemento che, dopo essersi visto verso un centinaio, anche di più probabilmente, volte tutta la serie di Pianeta Guerriero, se ne arrivò prima con 7 buchi fatti con un cacciavite di un anni dopo ando alla vecchia Conad dove c'era, dove adesso c'è la Mondadori, la sì. Mondadori, entrando là dentro cercando di fare la rapina nel nome della Sacra Scuola di non ti vedi che sciuppa tante di quelle lignate e dopodiché fu ricoverato all'ospedale psichiatrico di Meli. No, raga. E invece, ma pensa tu, ne potrei dire almeno e tu pensa fatto. Questo oggi sarebbe magari uno youtuber famosissimo, sì, sicuramente. No? Ma no, si lo so che ho scolivuto in qualche camera tipo con la camicia di forza. Metto, però è successo. 96, 97. Tu sai che è sempre negli anni 90, altro fan di Kenshiro, il palo di fronte al a quello che poi sarebbe diventato il McDonald's, hanno cercato di abbatterlo con un pugno, con risultati di disastrosi proprio per questo tipo. Fratture scomposte. Lasciamo stare, si era fatti un po' così. Ragazzi, il peggior comportamento nerd che abbiate... Io ne ho uno subito, che penso vi risulterà anche familiare. Il nerd che durante un altro raduno nerd fatto nella propria città se ne sta da solo a vedere i film del nerd dedicati a quel raduno nerd. C'è una citazione molto velata. Sì, vero? Ragazzi, puoi scegliere, c'è la pillola. No, ma le cose più simpatiche sono proprio le gare, veramente. Quello che va a cercare il pelo nell'uovo di qualche episodio. Tipo che ce l'hanno solo in tre, l'hanno visto in tre, ne parlarci su per giorni, ore proprio. Comunque tutti l'abbiamo fatto, cioè, quando si vede tutto un film, quante volte nel cinema, gran parte dei film supereroi, quante volte uno alla fine del film dice, ma hai visto quello, ma non... oppure Harry Potter o il Signore degli Anelli, proprio lì non era così. Ma lo fai quotidianamente. No, ma tu è una cosa da fare nel film. Ti dico sempre, ma come fai a non saperlo? Ma ti rendi conto? Ma come sei cresciuta? Senti, allora, se mi vieni a dire non ho mai visto Kenny Guerriero, poi Cavaliere del Zodiaco, cioè no, per no, me no, non no, ho mai avuto un infarto. Tranquillo Andrea, non ti giudichiamo. Il nerd io ho avuto l'infanzia migliore della tua vita. Ma io l'ho sempre visto entrambi, non me li ricordo perché avevo altre preferenze da piccola. Io sto parlando di te, diciamo in generale. Ma ragazzi, ricordiamolo, 10 euro c'è, cioè il materasso a disposizione delle coppie che ne hanno bisogno per poter restare anche. Quindi questa sorta di... razzismo nerd, diciamo che esiste davvero. Ma come non l'hai visto quel cartone animale? Ma quanto l'hai visto? Incredibile. Ma guarda che i nerd hanno un vero nemico. Dai, un unico nemico la che realtà. Lo spoiler. La realtà. Ma non dirlo proprio tu. Non dirlo proprio tu. Ecco, ha rischiato la vita. E lo sport. No, lo sport di ma perché sanno che questa sia una... No. Sport ne fanno i nerd. Alla Wii, ma ne fanno. Che è già qualcosa, è già qualcosa. Ricordiamo per salvaguardare la sua vita con quanto spoilerone tradizionale. C'è l'altro materasso nell'altra saletta con la possibilità di dormire al sicuro per essere ucciso nella notte. Ragazzi, quanto siete nerd, scrivete da cenacchiocciolabac.it e seguite tutti gli appuntamenti sul bac.it di questa settimana e del prossimo mese. Ci sarà di tutto, tra cui si prepara il mega torneo di calcetto tra le squadre regine e tutte le squadre di Reggio Calabria in campo nel torneo 3 contro 3 a calcetto. Quanto sarà bello. Voi continuate a seguire la cena dei regini, il bac e i ragazzi della cena dei regini. Grazie. Per la pazienza, l'affetto e anche per esservi annoiati con noi. Se ce l'avete fatta, scrivetemelo a cenacchiocciolabac.it. Settimana prossima, ciao.